Ne ricordo un paio. La prima raccontava di uno smottamento del terreno, di un'uscita di strada in campagna e del pericolo che avrebbe corso un cavallo. Scattava la solidarietà e gli uomini si aiutavano per risolvere la situazione. Uomini non più giovanissimi ma energici, abitanti la campagna più per dovizia di scelte che di destino familiare, bronzei e fieri, virili e franchi, virili perché franchi, franchi perché virili, pronti a rimboccarsi le maniche di calde camicie americane da boutique. Salvano il cavallo, ovviamente nello sforzo prodigato in comune si affrancano dalla loro comoda solitudine per ritrovarsi accanto al fuoco e a raccontarsela su, com'è che abbiamo fatto, però è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, e a bere un bicchierino di amaro che brilla, aureo e ambrato, ratificando l'evento. La seconda raccontava di un gruppo di amici che si mettono in testa di rivitalizzare un vecchio aeroplano. Togliere le ruggini ai suoi meccanismi è come lubrificare la reciprocità dei loro sentimenti. Si rimboccano le maniche sia dentro che fuori di metafora, si danno da fare, faticano con quella gioia che può provare soltanto chi ne può fare a meno, e ottengono il loro risultato. Alla fine l'aeroplano vola sulle loro zucche e l'amico coraggioso agita la mano in segno di saluto verso il drappello dei solidali, cameratescamente in festa. Si è fatta sera ormai e non è il caso di separarsi. Fuoco all'aperto, rimangono tutti assieme, si presume che il pilota sia sopravvissuto, per ricordare le fasi salienti dell'impresa, porre le fondamenta per narrazioni rinvigorenti future e bersi un bicchierino di amaro che brilla aureo e ambrato ratificando l'evento. A questo punto tutti coloro che in questi anni non sono riusciti a salvarsi dalla tempesta pubblicitaria a mezzo televisione e stampa sanno che tutti costoro bevono l'amaro Montenegro. La terza storia l'ho letta sui giornali. È anche la storia di fidanzamenti andati a male, anzi a malissimo. Siamo nei dintorni di Treviso, in modo che poi la psicologa di turno possa far notare che queste vicende avvengono dove regnano civiltà e opulenza, così come se fosse avvenuta nei dintorni di Catania avrebbe fatto notare che queste vicende avvengono dove regnano inciviltà e miseria. Siamo nei dintorni di Treviso e lei telefona al fidanzato con il quale si sono lasciati e gli dice di raggiungerla in un posticino riparato presso l'argine del fiume Sile. Lui ci va, la trova, ma all'improvviso da un cespuglio salta fuori il nuovo fidanzato che nel frattempo si era fatto prestare il martello dal babbo. Inutile dire che il primo fidanzato finisce malissimo. Lo massacrano e lo buttano nel fiume, non senza averlo alleggerito della tessera del bancomat e di 50.000 lire. Dal momento che per far funzionare la tessera del bancomat occorre una combinazione di numeri che non hanno, rimangono loro le 50.000. Sono in tre e non in due, perché comodità vuole che ci sia anche l'autista, e vanno dritti al loro bar dove spendono il frutto della propria fatica bevendosi, a quanto dicono le carte relative agli interrogatori di polizia, 3 Montenegro a testa. 9 Montenegro con 50.000 lire, anche gliel'avessero messi 5.000 l'uno, gli sarebbe rimasto in tasca qualcosa. Quell'affannarsi al massacro, dunque, è consapevolmente o meno risultato analogo alla fatica comune raccontata nelle storie della pubblicità. in modo tanto convincente da far sì che la vicenda venisse legittimata con l'amaro pubblicizzato. C'è il compito difficile, c'è la reciprocità di intenti, c'è la solidarietà nel farsi mezzo, potrebbero anche esserci state le maniche rimboccate, c'è il raggiungimento dello scopo e c'è la ratifica conclusiva, il coronamento da protagonisti della vicenda. All'amaro Montenegro la funzione di riscaldare il cuore freddo degli assassini, favorendo la digestione della loro vittima. Nell'ottimistica versione delle relazioni umane proposta dalla pubblicità non c'è spazio per queste vicende. Salvare un cavallo o rimettere in sesto un vecchio aeroplano, specialmente se in un clima di solidarietà civile e di rapporti diretti con cose e persone, sono ascrivibili invece al lato nobile delle missioni nella vita. Tuttavia, ecco, una qualche stazione del percorso, un brandello di racconto, una singola sequenza nel flusso complessivo della storia può venire estrapolata da chiunque in qualsiasi momento e più tardi può venire ritrovata in tutt'altro genere di narrazione. Sparisce il cavallo, sparisce l'aeroplano, rimane la natura all'aperto, rimangono le maniche rimboccate e quel senso dell'impresa che accomuna, magari rimane anche un focherello acceso, un suo surrogato da bar di provincia, e rimangono inequivocabili nello stomaco, nel cervello, nel ricordo, nei verbali di polizia. Rimangono i tre amari Montenegro, tre a testa finché ce ne sono stati nelle 50.000, secondo l'egualitaria divisione cui approdano gli animi cooperanti riscaldati dal sentimento in comune. Avrei voluto terminare facendo il pelo e il contropelo ancora una volta alla pubblicità e dicendo che se di relazioni umane meno fasulle volesse occuparsi, su storie del genere dovrebbe meditare. Ma mi sono subito dovuto arrendere, un po' interdetto. Meglio di no. Viviamo tempi in cui la strumentalizzazione e la spettacolarizzazione del dolore altrui ha raggiunto limiti intollerabili. Non c'è telegiornale che voglia esentarsene. C'è dunque neppur tanto remoto rischio che sotto l'egida ideologica della quotidianità e dell'autentico, la prossima pubblicità dell'amaro Montenegro rinunci ai vecchi prototipi e racconti una storia come questa, o questa storia. Tre ragazzi che ammazzano l'ex fidanzato di lei, poi vanno dritti al bar a farsi un amaro dietro l'altro. Magari proprio sull'ultimo bicchierino con l'arrivo della polizia, questo sì, per tacitare quel simulacro di morale sociale che induce a sonni tranquilli fino a che i rei pagano il fio dei loro delitti. Meglio per il momento è andata a quell'altro fidanzato che, non ammaliato dal fascino dell'opulento nord-est, se n'è rimasto a Palermo. È un appassionato di calcio e la sua amata ha capito da tempo che quando trasmettono partite in televisione è meglio lasciarlo stare. Anzi, per non annoiarsi troppo, per lo più lei se ne sta di là, lasciandolo solo nella stanza della televisione. Accade, tuttavia, che ogni tanto faccia capolino, giusto per dire, non so, ci sono anch'io, come va? Amore, ricordati che anche se la tua squadra del cuore perdesse, io ti voglio tanto bene lo stesso. E anche l'altra sera la povera cara ad un dato momento ha trovato il coraggio di comparire in sala mentre lui seguiva ansiosamente la sua squadra del cuore. Squadra del cuore che, Dio non avesse voluto, incassa un gol proprio in quel preciso momento. Lei entra e gli avversari segnano. Lui, cui non sfugge nulla, nota e annota. La invita a tornarsene di là e a lasciarlo solo con il suo doloroso handicap, 1-0 per gli avversari nel primo tempo. Ci sarebbe anche il tempo, a dire il vero, per rimediare. Nel secondo tempo invece la squadra avversaria dei suoi beniamini non sembra affatto arrendevole. Tant'è vero che segna il secondo gol. 2-0. 2-0 esattamente nel momento in cui la sua fidanzata, cedendo ad un moto incauto di tenace affetto, aveva deciso di ridare un'occhiata. Lei entra e fanno 1-0. Lei rientra e fanno 2-0. Il sottile epistemologo che dormicchiava in lui si sveglia come d'incanto. Se due eventi fanno una legge, qui si tratta di vita o di morte. Pensato, detto e fatto, accusandola apertamente di essere una iettatrice, il fidanzato rompe il fidanzamento. Lei gli fa causa. Lei gli fa causa. E a lui sembra che possa andar bene due volte. Finora, nonostante ce ne fossero tutti i presupposti, non ha ricevuto martellate sul cranio. E lei, dopo che il pretore le avrà chiesto il suo segno zodiacale o qualche altro particolare del genere, lei perderà la causa, a meno che questo pretore non tenga alla squadra avversaria. And I stumbled to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life.